9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, eccoci tornati in studio. Oscar Giannino, Franco De Benedetti ve l'ho già presentato, è qui al mio fianco in studio a Roma, e abbiamo collegato Antonio Padellaro. Buongiorno Padellaro. Buongiorno, buongiorno a voi. Padellaro, ricordate tutti, è stato un ottimo direttore dell'unità e adesso sta preparando un nuovo prodotto. A che punto sta la preparazione, Antonio? Dunque, la preparazione sta al punto che usciamo il 22 di settembre, quindi ormai il treno è partito e non si ferma più. No, ecco. Ed è un treno che mi auguro sia senza incidenti, ma ne sono sicuro, conoscendo, tenendo molto stima da te da anni. Comunque, grazie. molti auguri grazie davvero, perché c'è bisogno in Italia di voci capaci anche di scommettere su se stesso quando le proprietà cambiano idea. Mi piace moltissimo questa cosa che sta facendo Padellaro, perché anch'io, diciamo, porto i segni di qualcosa di analogo da tutt'altra parte, ma insomma, certo. È importante che ci siano giornalisti che muovono il dibattito delle idee, scommettendo su se stessi, mettendo la propria faccia sul proprio prodotto, il proprio giornale. Oggi parliamo, lo abbiamo detto all'inizio, delle televisioni di Berlusconi, e io cederei quindi la parola a Franco De Benedetti, dopo aver ricordato a voi tutti però che aspettiamo le vostre chiamate. Il numero è 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, per la mail 9@radio24.it. Allora De Benedetti, io faccio una sintesi di 20 secondi del suo libro. A me sono piaciute tre cose nella ricostruzione che lei fa. Primo, lei parte dall'impatto che hanno avuto le sentenze della Corte Costituzionale nel dare le linee di sviluppo di questo sistema televisivo, ma in realtà di tutta l'informazione italiana, dall'inizio degli anni 70, quando partono i primi tentativi di mettere in crisi il monopolio televisivo della RAI, e sono sentenze, insomma, molto pesanti dal punto di vista della definizione di che cos'è il pluralismo e come deve essere realizzato nel sistema televisivo. Secondo, lei richiama un aspetto culturalmente molto rilevante, perché lei parte sottolineando come la sfiducia della scuola filosofica di Francoforte, molto importante per orientare la sinistra, c'è stata una sfiducia verso tutte le forme della cultura di massa. Addirittura lei ricorda, fa molte citazioni, scelgo solo questa: per Adorno la cultura di massa è l'humus del totalitarismo politico, il che significa dare un giudizio molto preciso sulle televisioni commerciali di Berlusconi e poi sul Berlusconi politico. Terzo, e mi fermo, lei fa una ricostruzione di questa guerra. Il titolo del volume è appunto La guerra dei trent'anni, pensando a quella naturalmente che insanguinò, dissanguò la Germania, una vera e propria guerra di religione. E nel ricostruire questa guerra lei dice ci sono praticamente due periodi, cioè un periodo di combattimento vero, un po' come i primi anni della guerra dei trent'anni tedesca, però alla fine Berlusconi ha vinto da un certo punto di vista, siamo entrati in una fase diversa. Ma in quel primo periodo di combattimento lei fa un'analisi molto attenta a vedere come, mentre Berlusconi realizzava le sue tre reti, tra l'altro siamo esattamente a 15 anni da quando nell'84 Berlusconi arriva a possedere la sua terza rete, rilevando dai fallimenti di Mondadori e poi di Rusconi, e ricostruendo questa crescita, ma in parallelo a come cambiava tutta l'informazione italiana, a come c'era la crescita di Repubblica, la guerra per Mondadori e così via. Io metto solo questi tre punti, ma in definitiva, se lei dovesse rispondere alla domanda chi non ha più capito che cosa, è Berlusconi che non capisce la sua anomalia o è la sinistra che non ha capito le sue televisioni? Prego De Benedetti. Ma io ho cercato di rispondere a una domanda che può parere molto banale: perché abbiamo Berlusconi? Allora, d'altra parte, quando uno ha l'ambizione di scrivere un libro di storia, si pone la domanda perché sono avvenute certe cose, le cose sono andate in un certo modo e non in un certo altro, che pure era possibile. Quali sono stati gli scambi, metafora ferroviaria, che si sono presentati in tutti questi anni, che se fossero stati azionati in un modo diverso la storia sarebbe stata diversa? E per me la televisione è un filo conduttore per ricostruire questa storia, filo conduttore non arbitrario, se pensiamo che siamo nella società della comunicazione e che la politica è fondamentalmente comunicazione, e quindi l'importanza che la televisione ha proprio nello strumento base della politica. E certamente hanno avuto un loro ruolo importante i fatti culturali, i pregiudizi culturali. Credo che da noi, io sono convinto, qui intervengono anche dei ricordi personali, ma sono convinto che la svalutazione dell'industria culturale fatta dalla scuola di Francoforte attraverso il 68 e poi lì bisognerebbe fare le differenze tra Marcuse e Adorno, che sono molto importanti. Adesso questi sono dettagli. Attraverso il 68 ha avuto una forte influenza sul pensiero della classe dirigente italiana, della classe culturale italiana. E poi indubbiamente questo, la Corte Costituzionale, non direi che questo ha influenzato la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale deriva da altre cose, deriva, pensiamo, adesso non vorrei andare nei dettagli, ma pensiamo, a un certo punto è stato detto che, tanto la definizione di pluralismo, un fatto abbastanza complicato da definire, a sua volta pluralismo interno, pluralismo esterno, ma fondamentalmente l'idea che nessuno possa avere più del 20% di canali televisivi è un'idea che viene dalla Corte Costituzionale. E su che cosa è basata? È basata che a un certo punto, volendo dare un numero, hanno preso un numero che risaliva a una legge che lo diceva per la carta stampata. Ora, se uno ha in mente come dovrebbero essere, come ci si dovrebbe porre di fronte alla struttura di un sistema di informazione, l'idea di avere preso un numero, chissà poi perché 20 e non 18 e non 25, e tra l'altro riferito ad altri tempi e ad altri mezzi, dà l'idea di quanto approssimativa e direi quasi un po' affannosa sia stata la rincorsa della Corte Costituzionale in particolare per cercare di dare una norma a un settore nuovo che fondamentalmente non aveva capito. E questo di non averlo capito, secondo me, è il punto centrale del libro. La sinistra non ha capito l'esigenza di modernizzazione che veniva dal paese e che in qualche modo la televisione simboleggiava, ad un tempo simboleggiava e soddisfaceva. Allora, abbiamo già subito un ascoltatore, poi passiamo per il contraddittore Padellaro. Sentiamo Giuseppe da Milano, che opinione è? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Non avrò un pensiero così profondo come chi mi ha preceduto, vorrei fare solo alcune constatazioni. Secondo me la sinistra non ha mai capito veramente la strategia per come combattere Berlusconi. E come un imprenditore che si vede di fianco, un altro imprenditore che fa le stesse cose, lui riesce e lui no, perché? E non riesce a combatterlo. E ricorre a mezzi magari un po' scoordinati, tipo queste ultime trovate di attaccarlo dal punto di vista personale, che francamente rischiano di far diventare un martire piuttosto che uccidere il concorrente. C'è però, secondo me, adesso una notevole variante, che è Bersani. Bersani è persona seria e potrebbe essere veramente quello che fa la differenza nella sinistra, cioè non più attacchi alla persona Berlusconi, ma fatti prodotti da Bersani, che ripeto è persona seria, possono creare una strategia per combattere Berlusconi. Benissimo, io ringrazio Giuseppe. Allora, Padellaro, la sua opinione in merito alla sinistra come pregiudizio culturale verso la televisione che soddisfaceva questa società che cambiava i suoi gusti, i suoi stili di vita e di consumo negli anni, tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80. Partiamo di là. Ma forse è vero che la sinistra non ha capito Berlusconi, certamente lo ha sottovalutato. E questo è il punto. Io ero all'Espresso nel 93 con l'Espresso di Claudio Rinaldi quando Berlusconi cominciò a fare capolino, diciamo così, nella politica italiana, no? Alla vigilia della famosa discesa in campo. E io ricordo che l'Espresso fu l'unico giornale a dire attenzione, che questo signore è un signore pericoloso, è un signore potente, è un signore che ha delle idee, è un signore che rischia di prendere il potere e di tenerselo per molto tempo. Ci sono gli editoriali dell'Espresso a dimostrarlo. Beh, quando noi dicevamo questo, c'era un coro di ironico dei cosiddetti professionisti della politica, a sinistra ovviamente, i quali dicevano: ma che cosa dite? Io ricordo l'espressione impresario, non è un imprenditore, è un impresario, ma durerà pochissimo, ma è una meteora. E quindi il primo errore è stato questo. E quante volte la sinistra e i professionisti della politica hanno dichiarato morto politicamente Berlusconi? Beh, non si contano. Anche alla vigilia delle elezioni del 2006 si disse che ormai, va bene, erano gli ultimi fuochi. Allora io dico che la sinistra, il centrosinistra, DDS, il Partito Democratico, come li vogliamo chiamarli, finché manterrà questa supponenza che gli che è una, io sono convinto che ci sia dentro la sinistra una idea di superiorità morale, non lo so, non credo, ma insomma di superiorità culturale. Forse è interessante quello che dice Franco De Benedetti sull'eredità, la zavorra, diciamo, del 68. Finché questa superiorità, per cui noi abbiamo capito tutto e gli altri non hanno capito nulla, Berlusconi e i suoi emuli saranno destinati a vincere. Vorrei però, ecco, fare un'unica obiezione alle cose dette da De Benedetti. La parola modernizzazione, che è una parola terribile, perché secondo me non è modernizzazione quella che ha introdotto Berlusconi, perché la modernizzazione è su quello che è lo sviluppo della televisione privata, è su quello che è l'incidenza di una cultura di tipo nuovo. Beh, l'hanno avuto la Francia, l'ha avuto l'Inghilterra, l'ha avuto la Germania, e non hanno avuto bisogno di Berlusconi. Berlusconi è un altro fenomeno, è un fenomeno, e qui concludo, che non ha modernizzato, ha introdotto un rapporto tra potere e televisione che è un rapporto di pressione, di forte condizionamento e di uso politico i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. E su questa modernizzazione naturalmente anch'io avrei da dire qualcosa, nel senso che secondo me chi riesce poi a triplicare, più che triplicare, l'investimento pubblicitario italiano sul PIL, inventandosi una maniera diversa di raccogliere pubblicità. Ricordo che prima delle televisioni commerciali in Italia erano 700 le aziende che in totale ogni tanto facevano pubblicità sul monopolista televisivo Rai. In realtà erano meno di 300 quelle che davvero reggevano il mercato pubblicitario. Con Berlusconi sono diventate prima 5, poi 10, poi 20.000. Allora questa è una moltiplicazione del mercato che secondo me è una modernizzazione al mercato. Non sto parlando dell'utilizzo politico delle televisioni. De Benedetti, lei ricorda tra i tanti passaggi a un certo punto la reazione di Norberto Bobbio, sempre a proposito di cultura alta della sinistra. Norberto Bobbio è un nome tutelare, insomma, che raccoglie più tradizioni contemporaneamente all'interno della sinistra, quella socialista riformista, quella dei comunisti ravveduti, ma sempre con una visione alta e severa dell'impegno delle istituzioni. Lei ricorda le dichiarazioni, le interviste rilasciate da Norberto Bobbio all'indomani della vittoria di Berlusconi, ed era un Norberto Bobbio che diceva: mio Dio, qui ha vinto una cultura che è una cultura che mi fa, il testo non dice rabbrividire, ma c'era una profonda angoscia verso Bobbio, che diceva: questo modo di fare cultura è un modo che ci condanna, la sinistra è uccisa, sconfitta, senza prospettive. Cosa c'era in quell'amarezza di Bobbio, secondo lei? Una resa culturale, un'impotenza a comprendere, o il senso che bisogna fare un salto di qualità? Bobbio, ha ragione, mi fa piacere che abbia colto questo, perché se interessa, questo è il nucleo, quella riflessione di Bobbio è il nucleo generatore del libro. Cioè, immaginavo, poi siamo tutti torinesi qua, quindi. L'osservazione, lui dice: ma come è potuto accadere tutto questo? E tutto questo è che ha vinto Berlusconi. E lui dice: il mondo, lui è troppo intelligente per dire che erano gli spot che avevano fatto vincere Berlusconi, troppo intellettuale per riconoscere a un mezzo che lui considera tutto sommato rozzo come la televisione un così grande potere democratico nella lotta nell'agone democratico. Lui dice: no, la televisione ha creato un mondo, e poi la frase è diventata dopo famoso, naturaliter berlusconiano. Cioè ha creato il mondo nel quale nascono le persone che voteranno Berlusconi. E questo, secondo me, lui dice, questo mondo è fin qui, secondo me, è anche giusto, è anche vero che sia così. Quello che è sbagliato, secondo me, è la conclusione politica che lui trae. Lui dice: a questo mondo la sinistra non ha nulla da dire. Ma questa è la colpa del mondo o è la colpa della sinistra? Questo è il fondo. Eh certo, questa è la domanda. Questa è poi la domanda che ritorna quando D'Alema dice: questo è un mondo che è l'Italia è un paese fondamentalmente di destra, ma non è che ci sia destra e sinistra, che sono due razze antropologiche diverse. Esatto. Sono persone che si definiscono in funzione del programma che gli viene dato. Ecco, su questo naturalmente c'è chi obietta che invece no, in Italia le appartenenze per evoluzione del nostro sistema politico restano molto forti a prescindere dal programma. Lei lo sa che questo strumento interpretativo, e se sia davvero sull'elettore mediano che si vincono o si perdono le elezioni, noi, insomma, chi la pensa così, siamo abbastanza minoranza. In realtà poi nelle 5 elezioni, 3 vinte da Berlusconi, 2 perse da Berlusconi, che si sono succedute nella sua messa in campo, mi pare che il centro-sinistra abbia più giocato non sull'elettore mediano ma su quello identitario e sul senso di appartenenza. Abbiamo un ascoltatore, Giuseppe da Roma, che cosa pensa lei? Buongiorno intanto, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Rapidissimamente, ho la mia convinzione che il conflitto di interessi sia stato completamente sottovalutato dalla sinistra, anche perché credo che ormai loro sono padroni, sono convinti di essere sempre stati i depositari di qualsiasi tipo di cultura, e arroccandosi su questo tipo di convinzione hanno lasciato uno spazio enorme a un signore particolarmente intelligente che ha colto tutte le opportunità che ha trovato sul campo e che nel bene o nel male intanto ha creato parecchie decine di migliaia di posti di lavoro e soprattutto credo, nel mio piccolo, abbia modificato il costume degli italiani. Io ho 46 anni, ricordo anche con affetto i sceneggiati di Anton Giulio Maiano, tipo La Cittadella, Ron Cronin e compagnia. Poi siamo passati a drive-in con gente che aveva reggipetti e gonnette succinte. Probabilmente erano stanchi degli sceneggiati in bianco e nero di Alberto Lupo. Berlusconi ci ha dato quello che un popolo voleva avere e non riusciva ad avere e ci ha nutriti con questo. Questo è il risultato. E sono convinto che la sinistra ancora oggi non abbia né compreso gli spazi che ha lasciato a Berlusconi e non abbia assolutamente la soluzione per poter in qualche modo più o meno contrastare questo tipo di fenomeno. Allora, dopo la pubblicità, Padellaro sul conflitto di interesse, come il suo nuovo giornale ne proporrà la soluzione a una sinistra che dopo tanto parlare non è riuscita mai a fare una legge su questo? Eccoci tornati in studio e Padellaro, allora, sul conflitto di interesse. C'è chi sostiene, mai regolamentato dopo 15 anni, gli italiani, se continuano a far vincere Berlusconi, per loro non è un problema. Però poi ci sono strade diverse in teoria. Quali? L'incandidabilità, l'ineleggibilità? Lei che cosa pensa? Dopo 15 anni è un problema risolto non avendolo risolto? Allora, ma prima di tutto una cosa su Bobbio. Quando un grande intellettuale si domanda come sia potuto succedere, beh, andiamo male. Io non credo assolutamente, non ho mai creduto, certamente non competo con Bobbio, una mia osservazione, ma non solo mia, che Berlusconi come l'apprendista stregone abbia forgiato la testa degli italiani costringendola poi a votare per lui. Non mi sembra che sia così, mi sembra il contrario. Berlusconi è un grande venditore, un grande uomo d'affari, d'impresa, ha capito che l'Italia era pronta per avere una televisione un po' meno ingessata come quella della Rai, un po' meno con le ballerine con i mutandoni e via discorrendo, e ha capito che c'era un mercato, lo ha capito, tant'è vero come lei diceva, la pubblicità lo ha poi lo ha assecondato in maniera entusiasta, l'ha capito e ha sviluppato il suo polo privato, che l'abbia poi sviluppato con un'opera di virgolette convinzione, non voglio usare altre espressioni per non essere poi, avere poi guai con la giustizia, e questo è un altro paio di maniche, è un fatto centrale nella storia politica, non solo politica del nostro paese, perché la capacità di convinzione nei confronti dei ministri, dei vari governi, delle corti di vario genere, insomma, è stata piuttosto pesante. Veniamo al conflitto di interessi. Ma io devo dire che questa parola la pronuncio con un certo imbarazzo, perché dopo che per 15 anni l'opposizione di centrosinistra e i governi di centrosinistra hanno parlato di conflitto di interessi senza mai risolvere il conflitto di interessi, mi fa venire un forte sospetto che in realtà al centrosinistra bastava agitare il conflitto di interessi per ottenere qualche, prima si parlava di scambi, no? Ecco, per ottenere qualche scambio. Faccio un esempio degli ultimi tempi. Ma che senso ha prendersela con il direttore del TG1 Minzolini, che censura le notizie su Papi e sulle ragazze squillo di Villa Certosa o di Palazzo Grazioli, quando quella nomina è stata condivisa da un consiglio di amministrazione presieduto da un ottimo collega, Garimberti, il quale diciamo così non ha protestato molto quando avrà letto sui giornali e magari anche sul suo ex giornale La Repubblica che quelle nomine erano state concordate a Palazzo Grazioli, magari tra una Patrizia e un chitarrista. Insomma, io credo che la sinistra non può ecco il giornale che staremo per fare, ma insomma queste sono cose ovvie, noi non possiamo continuare a dire conflitto di interessi quando sotto questa storia del conflitto di interessi, forse questa storia nobile del conflitto di interessi, questa grande battaglia, si nasconde qualcosa di molto meno nobile, e cioè accontentarsi un po' delle briciole come ha fatto la sinistra rispetto al potere televisivo. Abbiamo un ascoltatore, Carlo, dalla Spezia. Sì, no, io volevo contestare questa dizione con la quale si vuole coprire tutto. Cioè, la sinistra dice: la sinistra è stata contro Berlusconi. No, la sinistra comunista è stata contro Berlusconi. Quindi la sinistra non è fatta solamente dei comunisti, era fatta anche dei socialisti. E i socialisti non sono mai stati anti-berlusconiani, anzi, sono quelli che hanno fatto in modo che in questo paese qui, dove c'era la RAI, che era monopolista, hanno sostenuto la TV commerciale per una maggiore diffusione delle democrazia per quanto riguarda le notizie. Per cui, perché continuare a dire la sinistra? No, si deve dire, Benedetti deve dire la sinistra comunista o ex comunista o che proviene dai comunisti, ha sempre fatto una certa politica. Un'altra parte della sinistra ha fatto un altro tipo di politica, che poi sia stata soccombente dal punto di vista elettorale, e questo è un altro paio di maniche, però dal punto di vista politico bisogna farla questa discussione. No, grazie Carlo, ma le garantisco, se legge il libro troverà ampie parti dedicate proprio nello sviluppo dei primi anni dell'azienda televisiva di Berlusconi, al rapporto e alle posizioni politiche, non il rapporto solo personale, come si usa dire, nei confronti del PSI, del suo leader Craxi, perché è tutto incardinato in una vicenda nella quale appunto la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista da una parte e il Partito Socialista dall'altra erano titolari, diciamo così, di due linee di sviluppo diverse, molto confliggenti della politica italiana tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Un altro ascoltatore, Roberto da Roma, prego. Pronto, buongiorno, grazie per l'ospitalità in trasmissione. La mia era più che altro una domanda verso gli ospiti in trasmissione oggi. Io mi domando, la sinistra parla sempre di Berlusconi che controlla completamente le TV e così via, ma io vedo a sinistra delle trasmissioni e delle reti televisive, Rai 3 nel caso specifico, palesemente schierate verso sinistra, mentre dalla parte di Berlusconi abbiamo soltanto un Emilio Fede che insomma sappiamo ha la credibilità che ha, più no che sì, e abbiamo trasmissioni che comunque, quelle satiriche, che prendono in giro un po' tutti. Abbiamo gente palesemente di sinistra nelle schiere di Berlusconi, tra cui Costanzo, tra cui la moglie stessa di Berlusconi, che sono comunque palesemente schierati più a sinistra che a destra. Io mi domando, dov'è il controllo di Berlusconi su tutti i media? Grazie anche a Roberto. Ripasso la palla a Franco De Benedetti. Una delle cose che mi ha colpito, perché poi naturalmente pur facendo questo mestiere poi gli anni passano, la quotidianità preme, però insomma ricordare la crescita, lo sviluppo dei grandi gruppi editoriali italiani a un certo punto fa impressione, perché ci sono stati anni come i primi anni 80 in cui, uso un'espressione un po' provocatoria, Berlusconi subentrava a fallimenti di grandi editori, Rusconi da una parte, Mondadori dall'altra. Però insomma non gliele regalavano le televisioni che poi prendeva, le pagava. Se dovessi dire, invece, gli Agnelli entrano al Corriere della Sera praticamente, non dico gratis, ma quasi, dopo le vicende invece della crisi del Corriere degli inizi degli anni 80. Ecco, appunto. Anzi, l'avvocato Agnelli disse, ci hanno chiamato perché dovevano... Ecco, questa differenza non è un po' sottovalutata quando si ricostruiscono le vicende editoriali di quegli anni? Indubbiamente c'è questa sofferenza, lei... di lì dalle conseguenze economiche di questa differenza. C'è una differenza che secondo me risale e che è centrale a questa a tutti questi 30 anni, in modo particolare i primi 15, ma che dura tutt'oggi. Ed è quella, quando un momento fa un ascoltatore parlava di, della differenza tra la sinistra e Craxi, beh, ecco, io credo che quella sia veramente stato, quando parlavo di scambi, quello è stato uno scambio fondamentale, che scambio o non scambio nel senso... Ecco, stai, sia attento a usare questo termine, scambio perché ferroviario, gli ascoltatori lo scambio, intendono... Scambio nel caso ferroviario, cioè una rotaia che poteva andare su una direzione ed è stata avviata su un'altra direzione. Ed è una storia lunga, perché risale a quelli che si sono considerati gli eredi del Partito d'Azione, quelli che si sono considerati gli eredi del mondo di Pannunzio, e poi la questione morale, e poi Bobbio, come la mentalità Bobbio di cui abbiamo parlato prima, e poi il patto dei produttori, che in fondo era un patto corporativo, e poi più recentemente i girotondi, e poi il moralismo. Insomma, c'è sempre una continuità di pensiero che dice: c'è una parte del paese che fa quella che Scalfari in un famoso articolo chiama la bella politica, e ci sono gli altri che ovviamente fanno la brutta politica. E fanno la brutta politica, però poi prendono i voti, vincono queste elezioni e governano. Io credo che questa sia la vera ragione per la quale non si è interpretata. Si parlava di modernizzazione, io credo che piuttosto è la modernità. C'è una modernità che è tecnica, vabbè, quella della televisione, del mezzo. C'è una modernità economica, che è quella a cui si riferiva lei, e cioè della crescita delle marche, della crescita del mercato interno, che sicuramente è legata alla televisione. Ma c'è soprattutto una richiesta di modernità politica. Ecco, è questa che secondo me non c'è. Quando uno, dal 94, dalla discesa in campo in avanti, io consiglio di rileggere il discorso della discesa in campo di Berlusconi, da quel momento c'è stata è diventato un fatto chiaramente un fatto politico. Voglio dire, se uno si presenta per 15 anni a 5 elezioni, ne vince 3, diventa capo del governo, beh, se non è questo un fatto politico, mi domando che cosa lo è. Certamente. Padellaro, senta, io ho molte sms che vengono a chiedere: parliamo dell'unico, sto leggendo testualmente, con le palle, scusate, ma è questo, io leggo, Travaglio, lui sì che è l'unico in grado di dare quello che merita Berlusconi. Leggo questo sms perché, siccome poi Travaglio è associato con te anche nella nuova iniziativa, per così dire, Travaglio è diventato quasi l'emblema iconico televisivo con Santoro, nelle rubriche quotidiane che ha fatto insieme a te sull'Unità, che continuerà a fare sul Nuovo Giornale, di un atteggiamento nei confronti di Berlusconi proprio senza compromessi, cioè ispirato a una logica di puntuale, dal punto di vista di Travaglio, ricostruzione di ogni vicenda di Berlusconi, carte giudiziarie alla mano. Ecco, quella non è la maniera, però di continuare a voler circoscrivere Berlusconi da fenomeno politico a fenomeno di chi ha violato le leggi? No, il contrario. Dato quello che gli sms a favore di Travaglio sono, come dire, lo specchio di una popolarità non tanto di un giornalista, ma di un modo di fare giornalismo, perché così come giustamente De Benedetti si domanda, ma era la mia prima osservazione, come ha fatto questo strano fenomeno di Berlusconi a vincere tante elezioni e avere tanta popolarità, no? Da allora dobbiamo anche dare atto che se c'è un mondo che guarda Travaglio come un punto di riferimento dell'informazione, vuol dire che un problema c'è una risposta che Travaglio dà in termini molto, molto, molto seri. Io non capisco però un aspetto di tutte queste ricostruzioni, dando a Berlusconi quello che è di Berlusconi, quindi io non ho detto all'inizio, l'errore è stato sottovalutarlo, ma come si fa a non vedere la questione morale, non moralistica, che riguarda Berlusconi, il quale è un signore che per ottenere quello che ha ottenuto, insomma, ripeto, voglio continuare a usare il termine convinzione, ha convinto partiti. Prima si parlava della sinistra, vorrei fare una a proposito di Craxi, ma guardate che io, insomma, ero cronista politico del Corriere e seguivo Craxi, a Craxi veniva l'orticaria ad essere definito di sinistra. E l'altro giorno, durante un dibattito, Matteo Colaninno, P PD si è arrabbiato perché qualcuno l'aveva definito di sinistra. Io non so dove è più la sinistra, io parlerei più correttamente di opposizione oggi. Comunque, come si fa a non vedere quello, le distorsioni e i condizionamenti che ha prodotto Berlusconi? Berlusconi non è stato semplicemente un presidente del Consiglio, è un signore che ha cercato di comprarsi, nel vero senso della parola, una parte delle istituzioni. Ma questo va detto, perché altrimenti, insomma, noi parliamo di Berlusconi come uomo della destra, ma io invidio i tedeschi che hanno la Merkel, invidio i francesi che hanno Sarkozy. Insomma, perché a noi è capitato uno come Berlusconi? Non potevamo avere la Merkel o Sarkozy? Però Antonio, io ho l'obbligo di dirti che se non ci fosse stata la discesa in campo, noi avremmo avuto, per l'effetto di Mani Pulite, un mondo ridotto in cui opposizione e maggioranza erano solo le diverse famiglie della sinistra. È probabile. E allora sai, questa è la vera risposta. Quell'uomo, in quei pochi mesi che tu ricordi, diede una risposta diversa dalle tradizioni politiche precedenti, perché metà del mondo politico precedente era spazzato via. Poi Antonio Di Pietro ha le sue buone ragioni. Certo, si era creato certamente un vuoto. C'era un'anomalia che si apriva, no? Se hai perfettamente ragione, però diciamo che quello che ha riempito il vuoto, insomma, ecco, non lo possiamo considerare è a propria volta un'anomalia. Ma io infatti sostengo il fatto, pur non essendo certo sospettabile di essere della sinistra postcomunista, che è un'anomalia, ma figlia di un'anomalia. Non c'è un altro grande paese avanzato del mondo oggi dove un tycoon vince 3 elezioni su 5 e da 15 anni al potere con questa forza. Però io non sono d'accordo quando tu dici ha tentato di comprare le istituzioni. Io ricordo quando ci fu il famoso i decreti di Craxi per impedire che i tre pretori, come avevano fatto, gli impedissero la diffusione tramite cassetta nelle sue reti a difesa di un monopolio come quello della Rai. Lì era una questione che lui si era comprato Craxi. Lì c'erano due visioni del mondo: uno con un mondo appiattito sulla televisione monopolista che diceva qui non si fa concorrenza ed è la legge a impedirlo, la legge, ma non il legislatore, no? Siamo la legge nel senso che sono i pretori. E dall'altra Craxi che diceva no, questo tipo di situazione è una situazione che risponde ad assetti politici contro i quali io mi batto, e quindi io faccio 1, 2, ne fece 3 decreti fino a che sbloccò la televisione. Ma si era comprato Craxi? Ma adesso io, questo mi sembra un'espressione un po' forte. Sappiamo di Mani Pulite, io non voglio trascurare tutto quello che in quegli anni è avvenuto, però c'erano due visioni politiche, per così dire. Quella di Craxi poi viene spazzata via. Eccoci tornati in studio, moltissimi sms vi state scatenando. C'è chi dice che la sinistra, finché si affida a Travaglio, però non farà che vincere Berlusconi. C'è chi invece dice che addirittura la mia presenza qua a questi microfoni sarebbe l'espressione del potere di Berlusconi. Mi viene un po' da ridere, vi invito a riflettere sul fatto che Feltri mi ha appena chiuso un giornale con la porta in faccia e cacciato dall'azienda. Quindi, insomma, non è così, vi posso garantire. Ma andiamo a temi più interessanti. C'è un'ultima parte di riflessione che io vorrei fare, con un rapido giro di riflessioni con De Benedetti Padellaro e poi ancora vostre telefonate. De Benedetti mi ha molto colpito anche perché, insomma, lei poi è fratello di Carlo De Benedetti, quindi che ha una qualche parte nel gruppo Repubblica Espresso, per così dire, però lei dedica molta attenzione a come Repubblica ha esaminato nel tempo, poi contrastato, combattuto il fenomeno Berlusconi, e non è molto tenero, a dire la verità. Io non voglio dare giudizi, ma quanto ha pesato questo fattore, cioè il fatto che Scalfari, al di là della proprietà, ma Scalfari, i giornalisti di punta di Repubblica, abbiano messo nel mirino una visione di Berlusconi che è quella classicamente, sia culturalmente che imprenditorialmente che politicamente, quella che dice quello è un nemico con cui non si tratta? Sì, la cosa risale, andrebbe spostata all'epoca di Craxi, perché è lì dove veramente, perché in fondo per quale ragione è stato preso un atteggiamento nei riguardi della modernizzazione rappresentata, delle istanze di modernità che comunque Craxi rappresentava rispetto a quella che rappresentava Berlinguer. Rileggiamoci che cosa scrive negli appunti di Tatò. Che cosa scrive Tatò di Craxi, le parole che usa per dire come dobbiamo tenere duro finché in Russia si possa avvenire la trasformazione. Sono cose che lette oggi lasciano trasecolare veramente, e noi ci abbiamo creduto. E se ci abbiamo creduto, in questo secondo me Repubblica e Scalfari hanno giocato un grande ruolo. Anzi, sì, forse non sono tenero, però ne riconosco la grandezza. Secondo me Scalfari è veramente il deuteragonista di quegli anni. Insomma, la guerra per la Mondadori era la guerra anche che poi politicamente c'è stata, però... è incominciato prima della guerra della Mondadori, poi la guerra della Mondadori è venuta dopo, ma già prima gli accenti e i toni erano quelli. E secondo me, questo è a mio avviso, questo ha avuto un ruolo determinante, tant'è vero che oggi ancora, prima Padellaro parlava, dice non parliamo di sinistra, parliamo di opposizione. Beh, il giornale dell'opposizione oggi è essenzialmente Repubblica. E sicuramente un giornale con grande ricchezza di anche una grande ricchezza culturale, e che però ha anche recentemente nella vicenda, chiamiamola Noemi, ha di nuovo ripreso delle posizioni di opposizione basata essenzialmente su questioni moralistiche piuttosto che su questioni politiche. Padellaro, una riflessione su questa importanza di Repubblica. In definitiva, anche nell'ultima campagna elettorale, Repubblica poi ha tirato fuori le cose della, diciamo così, prima Noemi, poi queste Baresi, eccetera, eccetera, ma è un po' lei che impone anche al PD questo criterio, questa marcia di lettura, o no? Ma non c'è dubbio che la Repubblica oggi è un punto di riferimento per elettori e lettori di quella parte politica, perché il PD insomma è ridotto male, no? E quindi è chiaro che c'è un'opera di supplenza che Repubblica ha fatto volentieri, sta facendo volentieri, come la fece in passato con la direzione Scalfari. Vorrei dire però due cose rispetto a Berlusconi e alla sua capacità, ripeto, di convinzione, qualcuno dice di corruzione. Ci sono fior di sentenze che parlano di magistrati prezzolati, e una riguarda proprio il gruppo De Benedetti. Tra l'altro è apprezzabile la neutralità con la quale Franco De Benedetti parla di queste cose, l'oggettività, però insomma queste cose ormai sono agli atti, quindi non è che si può far passare Berlusconi come un signore così che ha modernizzato così in maniera molto tranquilla e sostanzialmente nel rispetto delle leggi. Cioè, via, non scherziamo su queste cose. Quanto alla parola modernità, modernizzazione, che mi sembra una parola di questa discussione, la mia idea di modernità sono i 150, sarò anche, come dire, giustizialista, come si dice, però la mia idea di modernità sono i 150 anni inflitti al truffatore Madoff dalla giustizia americana, non sovietica, a fronte delle migliaia di risparmiatori truffati da Cirio e da Parmalat che non sanno ancora. Però con Berlusconi cosa c'entra? No, a proposito di modernità, siccome c'è un attacco, sento un attacco alla questione morale di Berlinguer, che viene, non è stato detto, ma insomma viene interpretata, sì, come questione moralistica. Sì. Attenzione che la questione morale non è un fatto, come dire, un cattivo umore di un moralista, è una questione centrale in un paese che, scusate l'espressione un po' volgare, è un casino sotto tanti aspetti. Come si fa? Non ho nessun riferimento alle vicende di Babbia. Ecco, perché come sempre ormai le battute sembrano invece andare oltre la realtà. No, assolutamente. Lo dicevo dal punto di vista della debolezza dei cittadini o dei risparmiatori in questo caso rispetto allo strapotere di gruppi che appunto hanno fatto il bello e il cattivo tempo, di poteri più o meno forti, i quali continuano ad essere impuniti. Volo ti interrompo, un'altra telefonata di un ascoltatore, Piero da Cuneo. Pronto? Piero, è in linea? Pronto, perfetto. Prego, dica. Vorrei soltanto dire un'informazione. Berlusconi è un ragazzo, un signore che parla a braccio, parla col cuore. Questo voi non avete ancora capito. Volete combatterlo, seguitelo, non combattetelo. Per combatterlo bisogna dare delle idee nuove. Carissimo De Benedetti, si ricorda della Olivetti. La ringrazio, buongiorno. Piero da Cuneo, con un accento che tra l'altro non lasciava intendere molti dubbi sulla sua origine, e naturalmente riporta al fatto che una storia imprenditoriale, quella di Berlusconi è di successo, altri ne hanno meno. Sì, su questo No, ma non dobbiamo parlare di un'altra vecchi. Trasmissione. Esatto. No, quando io vorrei solo che quando si parla di modernità o di modernizzazione, io non dirò mai che Berlusconi ha interpretato la modernizzazione al meglio della modernizzazione del paese, ma mai pensato una cosa del genere. Ho detto solo che rispetto alla richiesta di modernità che veniva dal paese, lui l'ha intercettata meglio degli altri. E se questo meglio non è abbastanza bene, figuriamoci quella degli altri. Benissimo, io ricordo che questo libro viene presentato oggi a Roma, per chi a Roma fosse interessato, alle 18.30 a Palazzo Marina. Sarà Massimo D'Alema a confrontarsi insieme a Maurizio Saccone, ministro del welfare, quindi anche qui due filoni diversi della sinistra che hanno trovato collocazione diversa. Saccone è un ex socialista, il ministro di Berlusconi, e D'Alema insomma è D'Alema, nel caso di dire altro. Antonio, una ultima brevissima cosa flash: ti aspetti che questo governo resti solidamente in carica per tutta la legislatura, oppure secondo te, non sto parlando di scandalo, cosa giudiziaria, ma la sinistra c'ha qualcosa di nuovo in arrivo che potrebbe cambiare le cose? Questo per ora lo escluderei, che la sinistra abbia qualcosa di nuovo, guardando anche le dispute precongressuali. Mi sembra la ripetizione di cose già viste. Il suo giornale. Eh? Il suo giornale. Ah, forse il mio giornale, vediamo, ma il mio giornale non farà sconti a questo centrosinistra, perché qui credo che siamo d'accordo, è al di sotto delle aspettative del proprio elettorato. Il governo mi sembra, malgrado tutto, un governo che non ha nessuna intenzione di suicidarsi, non vedo perché dovrebbero, e comunque io considererei una iattura se questo governo dovesse per qualche motivo cedere la creazione di governi di pasticci tecnici. No, per carità. Esattamente, sono completamente d'accordo. Mi è sembrato comunque interessante che esponenti della sinistra, della cultura, del pensiero, eccetera, dibattessero tra loro del ritardo e della sconfitta della sinistra nel comprendere Berlusconi. Per questo non c'era un interlocutore di altra parte. Che la sinistra rifletta animando l'autocritica mi sembra la maniera più giusta. Chiudiamo la puntata di oggi, non mi restano che i ringraziamenti in regia a Paolo Corleoni e Giorgio Mattè e i miei due bracci destri, appunto Gloria Guerrera e Laura Faggin. La linea al giornale radio. Domani ci occupiamo di una cosa che sta a metà tra la cultura, i vostri soldi e la possibilità di un'Italia migliore. Non vi dico di che cosa, però. A domani.